noi ne vogliamo una da 65 che produca al 90%, perché una a turbogas dà un rendimento molto forte, che produca al 90% e quindi che 55-60 megawatt possano essere realmente utilizzati anche in una prospettiva quindi di sviluppo, perché da 20 attuali a 60 vuol dire che sarebbe il triplo di produzione e di disponibilità effettiva di energia. E siccome attualmente le unità impiegate in Valbasento in termini di proprio numero di persone che ci lavorano sono 1282, a fronte delle circa 7000 che ce n'erano negli anni, diciamo, d'oro della industrializzazione inquinante della Valle del Basento, e allora vuol dire che quel numero può anche aumentare lì dove vi fossero realmente degli investitori. Questo tipo di dati, che noi andremo ovviamente domani ad esaminare nel merito anche attraverso l'aiuto di economisti, come hai visto c'è Nicola Cipolla e di altri tecnici, serve proprio a smontare la Confindustria che in questa fase, attraverso l'Unione degli Industriali della provincia di Matera, sta cercando ovviamente di agire il terreno della contraddittorio della centrale uguale lavoro, e quindi anche attraverso la sponda di taluni sindacati sta cercando di mistificare il dato reale di questa cosa per cercare una divisione sociale che non è assolutamente opportuna. Ecco il perché di questo convegno che cade in questo momento, no? Dopo la grande manifestazione del 25 che ha portato più di 5.000 persone in piazza Pisticci e prima della decisione finale sulla 800. La vera battaglia sarà sulla rimodulazione a 400. L'obiettivo di adesso è far arretrare Enerji S.p.A. da questo progetto da 800 che ha già avuto il via al Ministero. No? Noi diremo un'altra cosa, non è possibile pensare di realizzare una centrale se manca poi il progetto complessivo di cui la centrale dovrebbe sì essere parte integrante. Il progetto complessivo è dire chi deve venire a investire, che tipo di produzioni vogliamo, devono essere ancora inquinanti, deve essere la chimica che tante neoplasie di natura oncologica ha causato sul territorio, che tipo di produzione deve essere, quale tipo di investimenti ci sarà, con quali soldi, quale tipo di occupazione saranno accompagnati questi investimenti. E allora sì, in relazione a questo scegliamoci la taglia energetica compatibilmente al piano energetico regionale e non il contrario. Una centrale di questo tipo equivarrebbe in termini di produzione giornaliera e annua di polveri sottili pari a una città, alle stesse polveri sottili prodotte in una città da 300.000 abitanti, quindi una città come Bologna, immagina.